Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. È indiscutibile il fatto che nei miei viaggi, all'indomani delle feste, si vede nei volti dei viaggiatori che qualcosa di diverso è passato. Ormai si può dire che è passata anche l'Epifania, tutte le feste se le portate via, e ormai è passata un'altra settimana dopo, un'altra ancora, sta passando, quindi ancora l'eco lontana di quello che è stata la crapula festiva dovrebbe essere scomparsa dai volti dei viaggiatori, già ormai riassorbiti dal quotidiano viaggiare, fatto di impegni, fatto di pesantezze, fatto di ansie, preoccupazioni. Eppure lei la navigatrice sentimentale, colei che cerca l'uomo della sua vita, il compagno ideale, un punto fermo di virilità protettiva che possa accompagnarla nel cammino che ancora la separa all'età matura, beh, lei che va lungo le chat, lungo i luoghi di incontro virtuali, lei che cerca e rimane sempre delusa, è perfettamente ammantata di una sorta di aura di festività post-natalizia. Perché? Perché è bellissima, perché è abbronzata, perché sembra appena tornata da una vacanza al mare. Ma cosa ha a che fare questa sua pelle abbronzata, questo sorriso radioso e questo suo vestimento quasi leggero che contrasta con la nebbia che fa al di fuori del finestrino immaginare il nostro quasi un viaggio nell'aldilà? Ma è abbronzatura vera o finta? No, questa è una abbronzatura verissima, niente lampade che io non, a me non piacciono, quindi. Ma come hai fatto a abbronzarti sotto Natale? Me ne sono andata a Natale, io ho tolto tutti i panettoni di mezzo, i torroni, i parenti, i regali e sono partita. Sei scappata? Sì. E dove sei andata? Sono partita dal 22 dicembre al 6 gennaio e sono andata nelle Seychelles. Allora, se sembra un cinepanettone con Christian De Sica, Natale alle Seychelles. Natale alle Seychelles, è vero. E come ti è venuto in mente, scusa? Perché ho voluto fare un Natale un po' diverso, come non facevo da anni, quindi l'albero di Natale con 35 gradi, che è molto particolare, devo dire. Sai, ma che tipo di persone c'erano con te, no? Per farmi capire. Un gruppo decisamente misto, perché è un'agenzia online. Quindi sei partita in gruppo, eravate un gruppo? Sì, sono partita in gruppo e un gruppo molto... Erano amici tuoi? No, assolutamente, io non conoscevo nessuno. E li ho conosciuti all'aeroporto e poi abbiamo fatto questo gruppo. Beh, sono quei viaggi organizzati per rimediare compagni e compagne, dai, per fidanzarsi. Questo lo stai dicendo tu. Beh, così, ti ho già detto che non è così. Erano tutti single, magari. Erano tutti single. Guarda caso. Sì. Tutti single che a Natale vanno alle Seychelles. Maschi e femmine. Già. Insieme. Appassionatamente. Chissà, andate a fare, a giocare a scopone scientifico, scusa. No, siamo andati al mare, siamo andati a vedere le tartarughe, siamo andati a vedere flora e fauna, per cui è un viaggio che mi ha sicuramente... Beh, questi viaggi, è vero, poi alla fine si dorme tutti insieme in una camerata, una cosa promiscua. È proprio così, però non vedo assolutamente niente di promiscuo, perché ognuno se ne andava lì a dormire nel proprio lettino e dormiva, quindi non c'è niente. Vabbè, chiaro, ma vuoi dirmi che non è nato manco un amore, nemmeno un amore? Nemmeno mezzo amore è nato, guarda, mi dispiace, ti devo deludere, ma la vacanza è stata molto così, molto soft, molto carina e niente, è andato così. Vuoi negarmi che voi ragazze la sera diciate a te ti piace quello, a me piace quello, ti piace quell'altro. No, questo non te lo nego. Vedi, che... non posso dirtelo. Così, tutte le sere a parlare mi piace questo, mi piace quell'altro. Certo, anche perché c'è stava uno che non era veramente da... È il solito figaccio da viaggio organizzato. Sì, anche se mi sembrava un po', non lo so, un po' strano. Stranetto questo tipo, no? Stranetto nel senso pensate fosse un po' gay, questo è il problema. Ma no, questo non l'ho mai pensato, però certo poi alla fine qualche dubbietto ti viene. Certo, quando gli uomini non vi ci provano sono gay. Guarda, no, io non lo dico perché non ho pregiudizi, quindi non parto in quarta, però è anche vero che dopo 15 giorni che fai veramente l'ignavo, addirittura noi lo chiamavamo tre scimmiette perché tipo non vedo, non sento, non parlo, quindi era solo bello. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va, non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Voi facevate delle avanze, allora scusa, ignavo a cosa. Oddio, qualcuna di noi l'ha fatta. Ci ha provato. Io non l'ho fatta. Questa volta, guarda, veramente mi sono... Però guarda, credimi, è un quadro che più volte mi hanno raccontato e riferito. Si parte in questi viaggi organizzati, ci si conosce soltanto, magari prima via WhatsApp, ma ci si vede soltanto all'aeroporto quando si parte. Sì. Normalmente... sono gruppi, prevalenza spesso sono donne, sono più donne che uomini, perché sono più donne. Erano 7 donne e 5 uomini. Ecco, vedi, c'è sempre un lieve scarto. Quando si arriva, naturalmente, le ragazze, le signore, cominciano a fare le spartizioni dei pani e dei pesci, ipotetiche. Perché pensi che i maschietti non le facciano le spartizioni dei pani e dei pesci? Certo che sì. Eh sì, ma se i maschietti le fanno, poi almeno ci provano, ma lì mi sembra che non è successo niente. No, qui non è successo niente, proprio guarda, veramente... Ma degli abbozzi, la gente che usciva mano nella mano sulla spiaggia a guardare la luna. Ma non c'è stato niente di che, guarda, ma proprio nientissimo di che. Veramente ci siamo goduti il mare, il sole, le vacanze lontane da quello che è il casino romano, quindi niente. Non so se questa cosa mi rattrista o mi rallegra, non lo so. Ma dai, devi rallegrare, dai che sei un pochettino invidioso che ti ho lasciato invece nella famiglia. No, vabbè, sì. Quello, io sono sempre invidioso di chi riesce a scappare via, figurati, quello è in assoluto. Lo vedi? No, quello è vero, lo ammetto. Però devo dire, mi sembra tanto strano che se uno progetta una vacanza da single, questa è la tipica vacanza da single, mi sembra strano che la faccia soltanto per vedere il paesaggio, per respirare l'aria o per farsi la tintarella. Ma non l'idea è che io sono partita con l'idea, oddio, no, assolutamente no. Io beh, però c'è quella sorta di brivido di attesa un po', cioè conoscerò persone nuove. Ah, chi non ci sarà e magari incontrerò il famoso uomo della mia vita. Tutte lo pensano, dai, lo pensa chiunque. Tutte lo pensano, dai, a meno che non sei veramente... cioè, una suora di clausura. Ma perché erano tutte persone single, non avevano a casa fidanzati, mariti, no? Erano moglie. Tutti quanti single, tutti single. Quindi avevano tutte quante delle, magari delle storie alle spalle. Certo, sì, storie sicuramente. E le raccontavano? Cioè quello diceva, io mi sono appena lasciato con la mia donna. Con Donne sì, dai, tra donne si fanno queste cose. Quindi c'erano anche delle appena lasciate, fresche lasciate, lasciate di fresco. Sì. Anche proprio freschissime. Perché di freschissimo lasciata, la prima cosa che fai va a fare questi viaggi organizzati per single. Dice così, ricomincio da capo. Almeno, cioè, capito, chiodo schiaccia chiodo, vediamo un po' che cosa succede. La do al primo che me la chiede, così fa. E poi non lo fa sotto casa. Sì, perché... ma tu sei troppo crudo nel dire queste cose. Ma la mia amicizia, proprio... voglio dire la mia amicizia. Ah, ok, è sempre tutto oggetto quello che Uno mica può, mica può farlo sotto casa con i mosconi, amici dell'ex fidanzato vengono subito a cercarti. No. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E l'appena lasciata, diciamo, era quella che diceva faceva le spartizioni prima delle altre, immagino. È proprio così. Vedi, conosco il mondo. Tu sì che sei navigato. E lei che provava subito col bellissimo, pensando che chi se non per lei era il bellissimo. Beh, sì, devo dire che sì, un pochino ci aveva... Però vabbè, le cose poi sono... E lei è quella che è rimasta male quando lui non ha dato nessun segno di gradire le sue attenzioni. Ma veramente ci siamo rimaste male un po' tutte quante noi, no? Che facevamo comunque il tifo affinché questa cosa magari... Ah, vedi, no. Era lei che doveva accoppiarsi, quindi, praticamente. Già. Eravate tutte, diciamo... Era quella più papabile, capito? Come, e come tipologia di fisicità e come età, perché... Quindi eravate tutte mezzane ed è l'unica che era disponibile per andare con questo. Ma tu pensa, adesso, ti posso dire, mettiti nei panni di questo poveraccio. Sì, anche lui, se è bello, se è bello, va a farsi un viaggio da solo, avrà avuto anche lui qualche magagna sentimentale da dimenticare. Sì. E probabilmente, essendo bello, quindi potendo avere alla fine, come tutti belli, ahimè, purtroppo per noi banali, chi vuole, vuole proprio starsene da solo. Parte. Credo proprio che sia proprio stato così. E io ti dico, guarda, mi sembra di sentirlo sulla pelle. Arriva alle Seychelles, qua, mare, sole, sto bello. E invece comincia a vedere. Vedere. Quella che mi guarda, quell'altra che mi guarda. Ma no, soprattutto il cenacolo delle carampane che gli vogliono appioppare l'unica zitella disponibile, che a lui magari non piaceva. Che deve fare una sorta di vendetta postuma all'uomo che l'ha lasciata, quindi non c'è nemmeno una motivazione di tipo sentimentale. No, infatti non credo che ci sia, anche perché... E quindi ha detto, ma che mi costa, ma io se voglio me ne posso fare quante ne voglio, perché adesso devo rovinarmi sto viaggio, e poi sotto gli occhi di tutti. Ma credo proprio che sia stato così. Ma pensa quanto è imbarazzante persino andare a fare una passeggiata sulla spiaggia, quando c'è dietro tutto il coro che ti osserva. E ma tu sei anche tu con me? No, ma perché lo so come funzionano queste cose. C'è tutto il coro che ti osserva. Dice, e se magari a questa gli racconto qualcosa, lo sanno tutte. E se magari a questa faccio qualcosa, tutte valuteranno lo spessore della mia prestazione. Quindi un uomo gli viene una crisi di identità, è impossibile, guarda, credimi, è impossibile in questa situazione. Ma perché siete soltanto voi maschietti che vi fate tutte quante queste pippe mentali? Perché siamo maschi. Essere maschi comporta... Addirittura il problema della prestazione che sia valutata al 10 piuttosto che al 3, ma noi questi problemi non ce li facciamo. Sì, è colpisco, ma lo racconterà qualcun altro, dai. Avete la schedina in mano sempre, mentale, di ogni persona. A me non sembra che questa schedina sia sempre vincente. Beh, allora come mai? Io ho confidenze da donne sui loro uomini precedenti spessissimo, le raccontano gratuitamente, le raccontano le amiche, poi le amiche le raccontano le amiche, arriva sempre... Siamo più schiette, siamo molto più sincere. Arriva sempre un'amica che alla fine lo sa per quarta mano e casualmente lo racconta anche a te. E quindi tu sai del tuo amico insospettabile... minuto per minuto, centimetro per centimetro, tutto quello che dovrebbe essere la sua sfera intima. Adesso centimetro per centimetro mi sembra una sottolineatura che sta, dai, no, questa cosa non va bene. Purtroppo non me l'ha mai raccontata nessuno. Il centimetro per centimetro ti assicuro. Sì, vabbè, si va a palmi, che discorso, nel senso si va per... addirittura a palmi. Vabbè, detto questo, mi hai anche depotenziato l'ultima speranza, che era quella che potesse esistere. Non è la mia ultima speranza. No, mia, in generale, dei paradisi sentimentali in cui la gente va libera, nei mari, lontani, ma esotici. Forse sono altre mete quelle dei paradisi sentimentali, tipo, che ne so, magari la Giamaica, mi viene in mente quello. Beh, la Giamaica, cioè di mezzo ci sono cose un pochino di consistenza diversa. Sì, sì. Però si paga, il Big Bamboo si paga, non è che vai... Si paga, certo, si paga, quindi quella è una cosa, mi devi credere, guarda. Cioè, ci sei passata? No, assolutamente. Ma hai avuto racconti di queste cose? Ho avuto racconti di queste cose, sì. Una signora che c'era stata ed era... Comunque aveva fatto la sua esperienza ed era contenta di... Ma però, scusa, in questo non vedo assolutamente nulla di riprovevole. Ma assolutamente, ci mancherebbe, io poi non mi... Sono anche ragazzi che danno affetto, danno simpatia, non è che semplicemente si limitano ad essere degli oggetti di piacere. Ci hanno fatto letteratura, film ultimamente. Ma certo, cioè, però comunque devi pagare, quindi diventa... Sì, non è che gli dai soldi in mano. Gli fai gli fai dei regali, paghi le cene, paghi le situazioni. Non è proprio una marchetta in senso banale, no, brutale. Non c'è il cash. Sì. Però si sa. Molto, sai, no. Si innamorano, poi lo portano qui, il Big Bamboo se lo sposano, vorrebbero sposarselo. Questo è il fenomeno adesso. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. La tua amica era innamorata poi? No, assolutamente. La mia amica è partita con questa intenzione di divertirsi, passare 10 giorni diversi da quelli che aveva, che era comunque nella sua quotidianità, e per cui... E quindi è andata a scegliere un chiodone, sì, scacciachiodo. Ha passato questi 10 giorni un po' sopra le righe, diciamo. Però è un'esperienza che non avrebbe ripetuto più. questo mi ha detto. Poi, per poi fatta una volta mi sembra che non è che c'è molta differenza. Vabbè, ti sei tolta no, la soddisfazione. Sei tolto lo sfizio, capito? Lo sfizio, basta così. E vabbè. Dai, io questa cosa però non la farò, ti giuro. No, ma per me mica sono geloso. Se la fai almeno raccontacela, perché almeno ci racconti qualcosa che no, ci toglie da questa sorta di tedio del quotidiano. Sempre. No, perché mi scoccia pagare per altri, capito? Cioè io al massimo posso pagare una pizza e un gelato a un'amica, ma che debba farlo con un uomo che mi dia determinate prestazioni, no, assolutamente mi rifiuto. Guarda, i compulsivi pagatori di amore ti dicono che in realtà l'amore ha sempre un prezzo, perché comunque una persona, per sedurla e per mantenere viva la fiamma dell'amore, comunque devi sborsare soldi, devi avere un potenziale di acquisto. Se io e te fossimo fidanzati e la sera io avessi problemi a portarti a cena o andare a fare una serata al cinema o un piccolo viaggetto, l'amore si appassirebbe, l'amore ha un costo. Mantenimento dell'amore a tutte le cose, ma certo che sì. Ma pensai, due cuori e una capanna, ancora queste favole. No, vabbè, no, Cenerentola, dai. Non... Diciamo che la micragna è la cosa che più disarrapante che ci sia, capito? Quindi purtroppo ha sempre un costo. Purtroppo è una persona che distribuisce il budget, chi lo distribuisce in 30 anni di vita assieme, il proprio budget è disponibile per avere affetto in cambio, chi se lo brucia magari in tre notti. È una questione di capacità di allocare le proprie risorse. Il leone e la pecora, meglio un giorno, com'era quella? Non lo so, boh, che ti devo dire. Certo, vabbè. La vita, l'aspettativa di vita oggi è lunga, dipende anche dal potere d'acquisto. Vedi, anche nel sesso e nel sentimento c'è il potere d'acquisto. Ma è innegabile, è innegabile. Tu ti innamori di una persona, ti innamori anche del suo status. In qualche maniera ti piace vedergli addosso un vestito decente, un odore gradevole, perché, dai, l'abito fa il monaco, e delle scarpe non scalcagnate al minimo, capito? Ma sì, devi avere un dopo barba che mi piace, che è bravo, esattamente, da mercatino, esattamente, ovvio, questo, vedi, questo comincia già a entrare, ma è tutto relativo, capito? Ognuno al suo livello. Per te è sufficiente il dopo barba, per qualcun altro comincia a essere l'automobile, comincia a essere la casa, comincia a essere la posizione prestigiosa. Ognuno al suo livello cerca sempre qualcosa che per lui rappresenti comunque una gratificazione. Ma sai qual è la tristezza, però, secondo me, questa è una mia opinione, che queste cose vengano notate ora dai giovani. Perché sai, finché si parla di persone che comunque hanno già fatto una propria vita, l'hanno vissuta e quindi stiano cercando altre cose, ma quando a 20 anni, 25, 30 si cerchi subito questo tipo di status che mi stai dicendo, secondo me è una cosa triste, perché non c'è più l'innamoramento quello vero, non c'è più il romanticismo, non c'è più... Sai, i giovani apprendono i loro genitori, e se i loro genitori in realtà stanno insieme su questa sorta di patto commerciale, sto con te perché mi rappresenti uno status, è chiaro che dal primo fidanzatino cominciano a guardargli il vestito, la camicia, la maglietta, la macchina, certo. Ma non a caso oggi è difficile trovare coetanei che stanno assieme. Oggi una diciottenne circa un trentenne, una ventenne sta con un cinquantenne, e una trentacinquenne può andare benissimo con un settantenne. Il cinquantenne maschio? Sì. Il cinquantenne maschio, se è single, penso che sia ambitissimo, ma è difficilissimo. Perché sta con la ventenne, no? Dipende, o sta da solo perché non ne può più veramente, o se no sì, diciamo un cinquantenne oggi, diciamo nella fascia dei 30 anni ha un'ampissima possibilità di scelta. 30 anni, 35 anni, no, normalmente. Ma no, non li vedo vita lunga a queste situazioni qua, ma questa è comunque una mia opinione. Siccome la platea a cui attingere è vastissima, se una vita lunga ne guadagna la qualità e la scoperta e la sorpresa. Già, è vero. Ti sto dicendo cose che ti feriscono, lo so. Lo sai, è vero, lo sai che a me questi discorsi qua... È meglio saperle le cose, così uno punta direttamente sugli ultra settantenni, che ancora è una categoria per favore, guarda, che vuoi trovare, proprio stare. Da cui puoi attingere tranquillamente, hanno anche una attesa di vita limitata, quindi sai che sarà un amore che non ti logorerà 5-6 anni, poi entreremo nella fase cateterica in cui si ne occuperà una badante. Vabbè, grazie, buon viaggio. Ciao caro, anche trago che la Pasqua sia in un posto ancora migliore. Grazie, ciao, presto, ciao. Ciao. Il treno va. Ben Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Questa volta non posso dire che ho incontrato per caso il viaggiatore misterioso. Sono andato a cercarlo. Sono andato a cercarlo perché è la persona ormai più richiesta. Da quando ho cominciato a viaggiare in treno per la radio e raccontare i viaggiatori del treno, non c'è mai stato un viaggiatore che ha avuto un così ampio consenso, una così ampia richiesta di nuovi contatti, nuovi racconti, quanto il nostro viaggiatore misterioso. Ormai lo chiamiamo Marco Polo. Di lui non sappiamo null'altro che quello che lui ci racconta. Di lui non abbiamo nessuna prova di certezza che quello che ci racconta corrisponda a realtà, se non l'interpretazione che può fare ognuno di voi ascoltando la sua voce. Mi ha detto in un attimo che io non ho registrato e che non ascolterete mai. Dice: Nicoletti, ma perché dovrei prenderti per il culo? Perché dovrei dirti cose che non ho vissuto? Perché dovrei immaginare qualcosa che in realtà non fa parte della mia vita? Dammene una ragione, a me cosa mi importa? Tu ci sia o non ci sia, per me è totalmente indifferente. Io continuerò a seguitare, a viaggiare nel corso della mia vita, per quello che ancora la mia vita mi darà di tempo, di fiato, di forze, e poi vorrò andare a approdare in un paese lontano e lì rimarrò. Io posso fare a meno del mondo, posso fare a meno di voi che mi ascoltate, posso fare a meno di te che mi fai domande. Sono stato 2 mesi e mezzo io lì a Samarcanda. Ma ultimamente o tempo fa? No, se parlo sempre di 30 anni fa. E per un motivo, perché pensi, lì c'erano gli allevamenti di cincillà, di bisoni, no? E i narcotrafficanti, lo sa che usavano questi animali per vedere le reazioni chimiche dai tagli, no? Cioè provavano la cocaina sul cincillà? Sì, che tra l'altro euforicamente poi cambia, le viene la pelle, cioè il manto più bello, diventano più grossi e poi... Quindi i narcotrafficanti vanno in Mongolia e provano i tagli di cocaina sugli allevamenti, sì, erano, questi erano proprio mongoli asiatici, che lì usavano gli stupefacenti per un sacco di cose. C'era intrigato il governo cinese, il governo russo, c'era, guardi, era l'epoca dei Tupolev... ero stato invitato a fare un volo col Tupolev, quelli che sono caduti come le volte. E come vola il Tupolev? Il Tupolev è una barra volante, male, molto male. Una barra volante? Era un aereo, era stato progettato più per a livello militare che a livello civile. Quindi lei è andato in Mongolia per mi sono motivi di lavoro? Lì c'erano dei controlli pazzeschi, ci portavano a vedere le cose, non si poteva fotografare, alla sera si mangiava, c'erano sti mongoli di 2 metri che invitavano a ballare, si ballava tra uomini. Perché le donne erano ancora tenute, diciamo, segregate ancora? Le donne ne ho visto una solo che aveva le calze di nylon con i peli che le uscivano dalle gambe, non lo so. Oh, ma se erano tanti anni fa ancora, prima della caduta del muro? Se parlo del 70. Ah, ecco, beh, ancora. È tutto un altro assetto. C'era ancora i reticolati, l'alta tensione tra la Mongolia. Poi era il periodo che Mao aveva fatto quel casino in Tibet, sa, che voleva fare la diga per irrorare tutta la Cina di elettricità. Insomma, era un periodo di tensioni che forse conveniva starsene lontani, invece lei ci è andato. Ci sono andato perché avevo un grosso amico del Partito Comunista che organizzava questi viaggi, però quando tornavano non sapevano più cosa dire di quello che vedevano. Ma qual era la cosa? Avevano sequestrato i baschi che avevo comprato, quelli di Astrakhan. I famosi, quello lì che poi hanno fatto la foto Berlusconi e Putin col baccone di Astrakhan. Sì, esatto. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. E perché non si potevano importare? Hanno pelli che devono passare un... Ma no, si poteva far tutto, ma siccome la polizia moriva di fame, anche se aveva lo stipendio, il turista o quello che era l'organizzatore del viaggio, c'era un mangia-mangia che non finiva più, capisci? Dispariva le valigie perché le rubavano per i vestiti, cose. C'era una miseria incredibile. Si mangiava carne di montone, si bevevano il latte di cammella, che quello lì è buono, ma era una vita, poi lì quando fa freddo, se ti faccia conto che sta barcando era tutta soda caustica per terra, perché c'era un odore di urina, di escrementi, e poi il freddo abbassava tutto, però la città, questa Venezia dell'Asia era di una sporcizia bellissima, ma invivibile. Non c'era molta poesia, quindi, rispetto a quello no, che... No, c'era, guardi, proprio era insomma, io se fossi, avessi votato un partito comunista, lasciavo la stessa, era dove vi trovavo. Ma di cosa vivevano? Qual era l'economia prevalente a Samarcanda? E lì ci sono pastorizia, ci sono quelli che allevano l'angus, sai quelle... Sì, ci fanno gli hamburger. Cioè quelle buche piene di lana, e c'è pastorizia, sono divisi in tribù. E niente, poi le distanze sono immense, c'è l'Himalaya dalla parte, cioè niente, vanno a cavallo, sono quelli che giocano ancora, che una volta giocavano come gli azzechi, io non so chi, con la testa degli avversari, no? Tipo un polo, adesso fanno niente, è rimasta tribale, costumi bellissimi, sarebbero posti da visitare, era... Lei tra un villaggio e l'altro c'è 300 chilometri e se è come dire adesso prendo la macchina da Genova, vado a Roma. Ma oggi c'è un posto dove le piacerebbe andare? Gli ho detto, io ritornerò in Indonesia a posare le mie stanche ossa, come dico, da Genova. Cioè a vivere in Indonesia, diciamo? No, a finire i miei giorni là tranquillo, senza problemi. Aspetto solo che ci sia una svolta politica un po' migliore e poi... viaggio, sto lì, niente, non faccio niente di particolare, mi passo il tempo in un posto ancora, diciamo, al 30% naturale. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Ma cosa si fa in Indonesia? Cioè come passa la giornata? Mi domando, io... fare mille cose, solo se va nei villaggi, se le piace la pittura, i batik, se vuole imparare a scolpire il legno. Ah, fare degli hobby, diciamo. Ma sì, ma ce ne sono un sacco di gente che vive, poi non ha orari, non ha tempo, non ha spazio, si mette un bermuda, una camicia, vestito. Poi ho detto, il posto dove ci sono gli induisti si vive bene. Sono gente che sono simpatica, non hanno pregiudizi, non ce l'hanno con lo straniero, non... se si fa il segno della croce lo fanno anche loro, anche se sono induisti, cioè rispettano tutto, capito? Ma lei i paesi islamici l'ha visitati, oggi che sono al centro dell'attenzione mondiale? Non ci andrei nemmeno se mi strapagassero. Ma c'è stato in passato? Sì, sono stato a Abu Dhabi, Jeddah, nel Bahrain, sono girato abbastanza, poco tempo perché dove non c'è democrazia non va bene niente. Quindi un sacco di soldi, le fa vedere 18 macchine, 7 piscine nel deserto. Andavo molto volentieri a Abu Dhabi perché sull'aeroporto c'era i falconieri, sa? Con i falconi? Sì, che li addestravano proprio perché lì c'era pieno di gabbiani. Ah, per ammazzare, per scacciare i gabbiani che entrano nei motori degli aerei? Sì, appunto, e vedeva questi falchi bellissimi. Ma invece, diciamo, il Sud America se l'è girato molto, sì, l'America Latina. Sì, ho girato, io andavo, mi ficcavo nei villaggi, capito? È come se vengo a Roma, sì, vedo, so che c'è il Colosseo, so che c'è tutto, però vado a vivere attorno alla Bella Monaca, ecco, per dire, no? Ah, lei stava sempre in periferia? No, stavo dove c'è il popolino, dove c'è, non so, Roma per me, testaccio, che ne so, non è certo i Parioli o il Fleming, che non so, è Trastevere, ecco, quelle cose lì. Gli piacciono gli ambienti pop? Sì, quelli che hanno creato la storia di una città, di un popolo, insomma, ha fatto qualcosa prima. Ma nemmeno in Libia è mai stato? In Libia sono stato un poco tempo perché sono andato a interessarmi della Lodigiani che voleva alcune protezioni, ma non le hanno mai date. La Libia, infatti, si faccia conto che un giorno in Libia a Bengasi, a Tripoli e non so quale altra città libica parlava Gheddafi contemporaneamente. Io ho pensato fosse in conferenza video, invece aveva 5 sosie, ha capito? Ah, quindi lui era, altri tutti sosie a Vienna, al congresso dell'OPEC, e mandava in giro i sosie a parlare nelle piazze. Aveva i sosie, ma perfetti, eh? Uguali a lui. Uguali, istruiti a parlare, a muoversi. Sparivano 20 secondi dopo la conferenza, non trovava più Gheddafi in giro. Ho sempre usato queste controfigure, questi sosia, che si dice che qualcuno addirittura è stato operato per assomigliarli a Corabelli. Chissà anche quando l'hanno ammazzato. Questi qui sparivano, morivano, non si sapeva. Se era un sosia anche quando l'hanno ammazzato, forse no. Quello era lui davvero. No, l'hanno ammazzato perché c'era una cosa che io sapevo da un personaggio che viveva a Roma, che era un dottore, e c'era questo dottore che diceva che Gheddafi non si separava mai da una pistola d'oro che aveva. L'hanno ritrovata, infatti, l'ha trovata. L'hanno ritrovata e dice l'unica cosa dalla morte di Gheddafi certo che era lui, perché aveva questa pistola tempestata di diamanti, di tutto, con pallottole d'oro, tutto, c'era la maniera, con la vista portava dietro. L'hanno fotografata, però l'aveva presa uno delle persone che penso che l'abbia ucciso. Penso un po' se va basta, quella lì che fortuna fa. Bene, io la saluto intanto, per oggi diciamo che le vie si separano. Le auguro presto. Buona giornata. Alla prossima, arrivederci. Il treno va. Ed ecco il momento dell'audiolettera su vicende amorose e sentimentali. Questa volta un uomo. Cambiamo, variamo ogni tanto la formula, anche perché non so più cosa inventarmi per dare risposta alle donne. Invento, millanto, azzardo. Cerco in qualche maniera di attingere a tutto ciò che negli anni ho letto nelle rubriche di Posta del Cuore o quello che ho orecchiato da amiche, da zie, da nonne, da nipotine, da tutte le persone di genere femminile che mi è capitato di ascoltare, volente o nolente, per caso o per azzardo, per volontà o per imposizione, e quindi qualcosa in papocchio. Mi è più difficile dare consigli agli uomini. Perché? Perché normalmente non esiste solidarietà maschile. Esiste soltanto di facciata, e quella sorta di machismo da bar, perlomeno come lo vedono le donne, lo vedono gli osservatori esterni, che dall'idea che esista una sorta di compatta congenie maschile pronta a difendere i suoi privilegi e la sua centralità. In realtà non è così, come accadrà probabilmente negli ambiti prettamente femminili, nei giri delle amiche, delle colleghe, delle parenti e delle derivate e delle coordinate. Anche tra gli uomini esiste una forte rivalità. Anzi, l'uomo è abituato che in realtà il privilegio della conoscenza, il privilegio della frequentazione, il privilegio dell'intima d'azione deve essere sempre conquistato con il pugnale tra i denti. Quindi sappiano gli uomini che mi scrivono e mi chiedono consigli che i miei consigli potrebbero essere in realtà delle trappole, delle polpette avvelenate, delle maniere per perdersi totalmente e per uscire dalla gara, uscire dalla lizza. E quindi consideri bene il mio ascoltatore quello che a lui dirò. Caro Nicoletti, la tua voce mi accompagna in tanti miei viaggi in autostrada, facendomi riflettere, divertire o incuriosire. Considerato che parli spesso alla fine del programma di rapporti amorosi, ti espongo la mia forse banale e insignificante situazione sentimentale, in cui però mi trovo con tutte le scarpe e non so come uscirne. Da qualche mese nella mia struttura lavorativa è stata assunta una ragazza. Bene, io mi sono semplicemente e stupidamente innamorato di lei. Non è il classico problema di non mescolare la vita amorosa al lavoro, in quanto abbiamo ruoli e specializzazioni diversissime e non avremo mai a che fare dal punto di vista professionale. Il problema risiede principalmente, e non solo, nella grande differenza di età. Lei ha 24 anni, mentre io ne ho appena compiuti 43. In più è anche fidanzata, anche se il suo partner appare, a detta di tutti, un tipo insignificante, basso, noioso, assolutamente non bello. Ho pure voluto controllare dalle foto di lei sul suo profilo Facebook. Eccola, con il suo fidanzato che brindano per il nuovo anno con dichiarazioni d'amore. Lui assomiglia a un ritratto di Giacomo Leopardi, senza collo e più largo che alto. Io sono più vecchio, ma lui... ecco a cosa mi sono ridotto. a entrare in competizione sull'aspetto fisico. È vero, sono patetico. Mi sento profondamente stupido. Sono cosciente della follia di questa situazione. Mio caro, tu ti senti profondamente stupido, ma in realtà stai ricalcando un cliché in cui tutti gli uomini contemporanei da 9 a 90 anni stanno passando, o perlomeno quelli che stanno lambendo in maniera più o meno profonda, più o meno consapevole e consenziente, quelle che sono le frontiere che sembravano invalicabili a generazioni non soltanto digitalmente acculturate, di quella che è appunto la civilizzazione digitale. Tu hai 43 anni, ti piace una donna di 24 anni. Beh, dov'è il problema? Un quarantenne può tranquillamente attingere nella fascia femminile tra i 20 e i 30 anni. È normale, va da sé, guardate intorno. Al di sotto di questa fascia si comincia a entrare nell'area del reato, nell'area della perversione. Ma una 24enne oggi è una donna fatta. Non esiste differenza sostanziale di esperienza, di capacità di lettura delle complessità dell'esistenza, di abitudine nel gestire i propri rapporti tra una 24enne e una 50enne. Una 24enne e una 50enne oggi si equivalgono, come probabilmente un maschio 30enne più o meno non ha possibilità di evolversi dal punto di vista delle relazioni molto di più rispetto a un 50enne. Dai 60 anni in su eventualmente comincia a vedersi qualche differenza, l'uomo comincia a capire realmente e concretamente quali siano i segreti della relazione, i segreti dello scardinamento, della reticenza femminile, quando comincia a dimenticare a cosa mai possa essere finalizzato quel suo rivolgersi, cercare, essere attratto in qualche maniera dall'universo femminile. Ahimè, è fatale, questo sta nella natura. Ma posso dirti tranquillamente che a 43 anni tu puoi avere comunque una relazione con una 24enne, nessuno al mondo si accorgerebbe della differenza. Naturalmente è altrettanto banale il fatto che tu sia andato a cercare su Facebook le caratteristiche fisiche di quello che consideri in questo momento il tuo rivale d'amore, il suo legittimo fidanzato. È una chance che tutti noi uomini abbiamo di misurare nelle sue fattezze fisiche, perché è questo che importa, e dalle fattezze fisiche e dalle proporzioni antropometriche cerchiamo di cogliere quello che è il particolare che più ci interessa, quale sia l'uomo col quale noi ci confrontiamo, quale sia l'ipotetico e simbolico avversario con il quale dobbiamo vedercela per affermare la nostra supremazia nei confronti di una femmina. L'hai visto? Le foto normalmente non rendono mai giustizia. Tu dici che assomiglia a Giacomo Leopardi, è senza collo, è un bassetto, è piccolotto, ma potrebbe nascondere in sé delle caratteristiche di profondo fascino. E il fatto che non abbia edulcorato, non abbia fatto una cosmesi alle proprie foto, fa pensare che è un uomo molto sicuro di sé. Tu avessi visto un belloccio palestrato, muscoloso, con un selfie a favore di luce, con una faccia ritoccata da Photoshop, secondo me avresti avuto meno difficoltà a considerarti una valida alternativa a questo ragazzo. Tu pensavi che alla tua età non ci si possa più innamorare, ma guarda che ci si innamora fino a 90 anni, quindi è normale che ti sia piaciuta questa ragazza. Adesso quello che tu mi chiederai probabilmente è come andare avanti. C'è un pensiero dominante, un qualcosa di incontrollato e quasi una malattia che è sorta nella mia mente. Pensavo di non innamorarmi più alla mia età e invece ci sono cascato in pieno. Che cosa mi ha fatto innamorare di lei? Lei non è, dal punto di vista fisico, una ragazza da far girare la testa. Anzi, diciamo pure che ha quello che chiamano culone. Ma quello che mi incanta sono il viso e il sorriso bellissimo. Mostra una semplicità e un candore rarissimi da intravedere nell'umanità femminile a me nota. Con lei ho cordiali rapporti e sono tra quelli con i quali si è aperta di più, essendo lei non timida, ma credo molto riservata. Sarebbe, secondo te, enormemente patetico e sbagliato provarci? Confesso che accolgo quasi con fastidio questo innamoramento. È forse una malattia a cui non dovevo in nessun modo espormi? Mio caro, chi vuoi prendere in giro? Ho qualche anno più di te. Tu mi vuoi far capire che di questa ragazza ti ha colpito il candore. Un candore rarissimo. Un candore non mai visto in una femmina. Il suo sorriso, la luce dei suoi occhi. Però dice che è quella che viene definita una culona. Tu sappi che nel nostro più recondito e atavico istinto prevale una massima di saggezza che ti consiglio di fare tua: donna senza culo, alpino senza mulo. Quindi evidentemente tu di questa 24enne apprezzi la vigoria, apprezzi la qualità callipigia molto di più del candore dei suoi occhi. Insomma, lei ti attizza tantissimo, tanto che tu del suo fidanzato vai subito a considerare le qualità fisiche, l'antitesi maschile rispetto a questo esempio lontano, atavico, preistorico di bellezza, che però ti attira tantissimo. Con lei hai cordiali rapporti, lei non è timida ma sta sulle sue. Tu sei innamorato e dici: cosa voglio fare, cosa posso fare? Niente, non puoi fare nulla, anzi buon consiglio, non fare nulla. Visto che lei è una tua collega, nel posto di lavoro nessuno ti perdonerebbe il fatto comunque di averci provato, e se tu ci provi lei sicuramente ti respinge, lei sicuramente ti metterà in una situazione di estrema difficoltà. Se lei avesse deciso di averti, già ti avrebbe avuto. Se lei questa decisione non l'ha presa, non l'avrai mai. Scordatela, pensa a qualcos'altro, vai in palestra, fai delle lunghe passeggiate, fai delle belle docce gelate, usa tutti quei rimedi salesiani ma efficaci per dimenticarsi un affocamento amoroso. Si tratta di attizzamento, non si tratta di amore. Le due cose corrispondono, le due cose sovrappongono, le due cose ambiguamente molte volte si presentano, ma se vuoi salvaguardarti il lavoro e salvaguardarti soprattutto la tranquillità futura, lascia perdere, pensa a qualcos'altro.